Radio 24. Libera la voglia di fare. I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, buon sabato 19 novembre alle 10:08 primi e 28 secondi. Compare di Conti la Belva, vi saluto in diretta dagli studi della piovosa, uggiosa e quindi pienamente novembrina Milano. Grazie per l'ascolto, naturalmente in diretta in podcast. Ai microfoni a salutarvi Oscar Giannino, Mario Seminerio e Carlo Alberto Carnevale Maffè. E come sapete poi più aggiungere Renato Cifarelli, vi dico subito di che cosa parliamo in trasmissione invitandovi a telefonare all'800 24 00 324, 349-238-6666 per gli sms, per le opinioni. Oggi c'è un grande tema fondamentale, lo declineremo in diversi aspetti, ma ce n'è uno perché oggi è una grande festa, non solo auguri, che si chiama Fausto, è San Fausto, no, la grande festa sono i mille giorni del governo Renzi, celebrati ieri in una conferenza stampa con delle slide dal Presidente del Consiglio, i mille giorni che cadono naturalmente a 2 settimane, ancora 2 settimane. Prima del referendum in cui tutti quanti voi sceglierete come la pensate sulla riforma costituzionale, ma insomma l'occasione di questi mille giorni è fare il punto di quello che è stato fatto, di quello che si poteva fare, del bilancio, delle soddisfazioni e delle occasioni perse, con un occhio all'instabilità mondiale, al dopo Trump, al Brexit, insomma alle cose per cui lo spread sale, come ovvio quello italiano, ancora una volta, e ci risiamo con i protagonisti dell'esplosione del 2011 che si prendono le rivincite dicendo ah ma siamo sempre allo stesso punto, oppure ci avevate cacciato come fa oggi Tremonti. Quindi chiamate per dirci la vostra opinione sui mille giorni del governo Renzi. Siete felici, soddisfatti, comunque mediamente è sufficiente il giudizio, oppure no? Fatecene sapere il perché chiamandoci in diretta. Oltre a tutto questo e agli aggiornamenti a breve con cui cominceremo subito dopo la prima pausa, come al solito la rubrica di Mario Seminerio Che punto è la crisi, vediamo i nostri compari che cos'altro vogliono sottolineare di questa settimana alle nostre spalle. Mario. Ma pare che ci sia stato un caso di difterite in questo paese, diciamo, anche se non si sa nulla ancora in dettaglio per evidenti motivi. E quindi questo è chiaramente, come dire, l'inizio di quello che accade quando progressivamente si perde la copertura vaccinale nella popolazione infantile. Qualcosa su cui riflettere, diciamo, visto che c'è il mondo è coinvolto in questo turbine di irrazionalità. In Italia, tra l'altro, secondo gli ultimi dati, ci sono 670.000 bambini che non sono vaccinati per il morbillo, quindi questi sono dati assolutamente rilevanti. Che dire, aspettiamo che i casi aumentano, dopodiché si prenderà consapevolezza di quello che sono esattamente queste malattie e faremo una bella regressione all'età infantile, diciamo. Questo è abbastanza interessante. Viva allora, il pregiudizio antiscienza. No, io allora continuo su questa filone dei complotti o comunque della cultura irrazionale. Anticipo un tema che discuteremo, cioè leggo tantissime teorie del complotto su come si stanno comportando i mercati internazionali con il nostro spread e con le nostre banche, dicendo ecco l'influenza nefasta dei mercati che vogliono dire all'Italia quello che deve fare, influenza della nostra sovranità. A me spiace dire che vendere è un atto assolutamente legittimo in un mercato e che il prezzo è un giudizio implicito sull'affidabilità di un debitore. E quando sei in un paese o comunque con un sistema bancario che di debiti, diciamo, ne ha a sufficienza, è ovvio che il prezzo, cioè il risultato delle decisioni di vendita di chi non crede più nella tua affidabilità, è come dire, un giudizio di mercato, non è un complotto. Quindi rassegniamoci, indipendentemente dal giudizio del merito di quello che sta succedendo, e ovviamente non è l'unica motivazione, ci sono scelte su Basilea 3, ci sono scelte del regolatore bancario europeo che ovviamente influenzano tantissimo l'andamento del mercato italiano, sia dello spread da un lato perché lo Stato non è ancora del tutto tutto uscito da una logica di garanzia, se vogliamo, delle banche, nonostante questo preveda la direttiva europea e certamente di alcune banche in difficoltà. Bene, voglio dire che basta con questa zona del complotto, altrimenti torniamo al modello cinese, e cioè, signori, si può solo comprare, esatto. Vendere è vietato per legge. Beh, esatto. Ma c'è chi lo pensa e lo propone esplicitamente, cioè sì, tu sì. Lo proponi come paradosso, ma guarda che il modello per il quale... cioè, basta vedere, tutte le sere in televisione ci sono dibattiti in cui si dice che basta che una parte vinca le prossime elezioni, cominciando con la vittoria di una certa scelta, arriveremo con la proibizione per le aziende italiane di stare all'estero, con la proibizione di comprare cose, quindi, c'è poco da proibire se guardate i saldi di Target 2, cioè i saldi che ci fanno capire quanto si sta muovendo, diciamo, della liquidità italiana all'estero, sono a livelli molto elevati. In effetti da Francoforte qualche segnale di timore c'è sul tema, cioè non stanno entrando capitali e quei pochi che ci sono stanno uscendo. Non è un segnale bello per il paese, bisogna dirlo con chiarezza. Non è un segnale bello. Tra l'altro, voglio sottolinearvi, cari compagni, questa volta sono sorpreso anche un po' io oggi, dando un'occhiata così in 360 gradi sui giornali, su tutti i temi, come sempre, c'è il referendum quasi dovunque, le code del caso De Luca, eccetera, eccetera. Però non mi aspettavo che, per esempio, fosse il Fatto Quotidiano a creare una specie di caso, insomma, ad attaccare forsennatamente l'ipotesi che Unicredit possa andare ai francesi, è una delle voci che girano, no? con Mostier che lavorerebbe a un'ipotesi per cui il socio forte con l'aumento di capitale Société Générale, e quindi Unicredit diventa francese, il governo fa finta di niente, se va in porto all'Italia resterebbero solo due big finanziari internazionali, Eni e Intesa San Paolo. Ecco, non erano toni un po' da MF, come devo dire, mi sorprende che anche al Fatto ragionino così. Ma questo a proposito del Fatto, come vedi, caro Alberto, che c'è un trasversale impulso ad abbracciare temi che comunque sono tornati a livello internazionale a essere i temi che hanno il vento nelle vele, cioè sovranismo, i dazi, il fatto che viviamo in un contesto di commercio internazionale in cui non piace più la trattativa e il trattato multilaterale, ma quello bilaterale da potenza a potenza. Questi sono i segni un po' della fase che viviamo, e credo che anche in Italia credere che tutto questo non ci tocchi sarà un'illusione, ecco, non so se siamo pronti. Sì, anche perché il nostro export ha dato un grande contributo in questi mesi a tenere in equilibrio la nostra fragile situazione di PIL. Non lo so se può espandersi, e anzi dobbiamo temere che debba probabilmente aspettarsi nel medio termine qualche piccola battuta d'arresto, in particolare nei confronti degli Stati Uniti. Quindi c'è oggettivamente qualche segnale di preoccupazione nel medio termine. Ma scusa, noi non eravamo quelli, diciamo una parte di noi almeno, che prevede, come dire, di svalutare il cambio, stampare, certo, sì, diventare più competitivi, esportare di più, e però contemporaneamente viva i dazi. Cioè, aspettiamo, ripeto, tutto va, le tessere del puzzle vanno al loro posto, poi alla fine la realtà si afferma, quindi vediamo come andrà a finire. Io ripeto, sì, per me è la stessa cosa dei fanatici del chilometro zero che poi fanno fuoco e fiamme per avere la protezione a livello comunitario della denominazione di origine. Lo stesso identico concetto di protezionismo asimmetrico che a me ha sempre fatto sorridere e che però pare essere, come dire, molto ben incardinato nei cervelli di parte della nostra popolazione. Bene, mi ha fatto molto impressione questa settimana due cose, ne parleremo comunque anche questo nel corso della trasmissione. La prima è Obama che, facendo il giro di leader europei, dice alla Merkel: guarda che ci sei rimasta solo tu, come diga, contro il populismo, che da una parte è un bacio della morte e dall'altra purtroppo è così vero che infatti significa che siamo abbastanza fottuti. Però Obama in questo però non legge neanche le interviste di Berlusconi, dai, però, cioè, dovrebbe ammettere che l'altro grande leader europeo è il nostro Presidente del Consiglio. Mi stupisco che Obama non si abbeveri alle grandi letture politiche di Silvio. Vabbè, succede. E dall'altra la fermezza che mi ha sorpreso con quella Yellen si è rivolta chiaramente al Presidente Trump. Finalmente qualcuno che perché ha il coraggio. Non mi aspettavo da lei una fermezza di queste proporzioni, a difesa dell'indipendenza delle banche centrali, quindi con il tuo nome stai attento e così via. E insomma, è un segnale, a te, lo dico perché non tanto perché curioso delle vicende di politica monetaria, difensore dell'indipendenza delle banche centrali, ma perché maggiore sarà la divergenza, la simmetria tra il percorso della Fed e quello della BCE, più, voglio dire, come italiano si aprono delle conseguenze, come è evidente, perché è ovvio che il premio al rischio, chi più ne ha più deve pagare, si accentua. Ah, in effetti abbiamo lo spread a 180, esatto, che è il record, se non sbaglio, di tutto l'anno, quindi, che è una delle cose invece che dobbiamo guardare con più attenzione. Torniamo tra un minuto. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Ricordati che devi morire! No, non me lo segno proprio, non mi preoccupare. Allora, questa settimana di che cosa, qual è il dato o i dati su cui, a prescindere dal bilancio che poi faremo con ospiti come Luca Ricolfi, Davide Carretta, Giorgio Infranca, i diversi aspetti più importanti dei 1000 giorni del bilancio del governo. Da cosa partiamo invece, Mario? Ma direi atto dovuto, la prima stima del PIL del terzo trimestre, più 0,3%, abbiamo fatto meglio della Germania che ha fatto più 0,2%. Questo lo dico, come dire, come considerazione oggettiva, perché pare che 0,3 sia maggiore di 0,2, non perché ci siano considerazioni patriottiche o quant'altro. Ah, qui c'è una convergenza algebrica, vedi, tra le belve e il governo. È così che non siamo così antigovernativi. No, però io, diciamo, siccome ho letto tutto il contrario di tutto, del tipo un risultato figlio del turismo, della ripresa dell'immobiliare, eccetera, che, cioè, non so veramente dove si trovino questi dati, però... Allora, attendiamo due cose. Questo metodologicamente, così magari fate anche bella figura al bar o quando siete in giro sui social. Le prime stime, diciamo, sono assolutamente informi, nel senso che non c'è la disaggregazione per i vari ambiti. La seconda stima sarà pubblicata il 1 dicembre. Lì sarà interessante vedere, come sempre, quanta parte della crescita è imputabile alla variazione delle scorte. Perché se scoprissimo che le scorte sono aumentate nel trimestre dello 0,3%, scopriremmo con un complesso algoritmo che la crescita è zero al netto delle scorte. Ora, l'aumento delle scorte può essere volontario o involontario, può essere propedeutico ad un grande sforzo produttivo perché c'è un'imponente domanda in corso, oppure può essere un accumulo involontario perché, diciamo, la domanda si è improvvisamente indebolita. Queste sono cose che ripetiamo da sempre fino alla nausea. Diciamo che il dato aggregato è quello, dopodiché si vede com'è la scomposizione del dato. Poi è uscito in settimana, ma oramai direi che non fa più notizia, però lo citiamo lo stesso, l'aggiornamento mensile dell'osservatorio sul precariato dell'INPS. L'unico numero, diciamo quello riferito ai primi 9 mesi del 2016 in confronto allo stesso periodo del 2015, il numero netto, quindi al netto delle cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato attivati nei primi 9 mesi, è di 47.455, quindi nuovi rapporti e trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ripeto, 47.455. Lo scorso anno, che non fa testo perché era assolutamente drogato dai sussidi pieni del Jobs Act, furono 519.690. Quindi quest'anno abbiamo meno 90%. Non solo, nel 2014, quando non c'era sussidi e quindi il campo era pulito, questa variazione fu di 104.000, quindi più del doppio. Ora, anche qui è inutile ripetere gli stessi concetti. È abbastanza evidente che nel 2015 c'è stata un'imponente anticipazione di assunzioni che nel 2016 sta venendo restituita. Da qui in avanti vediamo cosa accade, però... Fatemi dire un punto che mi sembra abbastanza singolare e interessante. Che succede? Credo che sia. Credo che sia. credo che sia... Ti è partito qualche cosa, c'è Carlo Alberto, c'è che, Carlo Alberto che sta cercando, è ignaro di, che qualcuno dei suoi strumenti... Sabotare. Era un po' di rock, ragazzi. No, ma voglio dire, avete sentito della proposta di Renzi di decontribuzione totale INPS per 12 mesi nelle regioni meridionali? Soprattutto abbiamo anche appreso ieri 26 minuti integrali con la spiegazione autentica da parte di De Luca, che ci ha spiegato da dove vengano. Esatto, a parte quello. Allora, questi sono 730 milioni di decontribuzione, di cui 530 sarebbero pagati da fondi europei. Ora, io personalmente credo che nulla osti al pagamento, perché ricadrebbe nell'ambito del finanziamento delle politiche attive. Però cerchiamo di essere seri, cioè che cosa mi significa una decontribuzione a termine di 12 mesi? Te l'ha spiegato De Luca. Il nulla, no, appunto, il nulla, al netto di quello che ha nulla spiegato contabile. Al netto di quello che ha spiegato De Luca, direbbe, diciamo, che ricadi in pieno nella parabola Bersani che ha spiegato. No. Vieni chiaro qua per la campagna elettorale. Esatto. E si mette a parlare di saldi di bilancio. Esatto. Ma come si fa? Esatto. No, ma come si fa? A parte questo, io ho fatto una piccola, come dire, ricerchina, e mi ha colpito il fatto che c'è già un progenitore del Jobs Act, che è la legge 407 del 90, che stabiliva che chiunque assumesse nel mezzogiorno disoccupati o cassintegrati da oltre 24 mesi potesse fruire di una decontribuzione totale per ben 36 mesi. Ora, vi ricorda qualcosa questo schema? Cioè, questo è esattamente lo schema del Jobs Act. Cosa differenzia il Jobs Act dalla 407 del 90? Le risorse coinvolte, gli importi e soprattutto l'eliminazione dell'articolo 18. Però l'essenza non cambia di una virgola. Cioè, stiamo parlando di sussidi a termine, temporanei, transitori, che quando finiranno ripristineranno la piena onerosità del costo del lavoro e per molte aziende renderanno gli organici e la loro manodopera un lusso che non ci si può permettere. Nel frattempo, poiché il mercato non accetta vincoli ma trova sempre una strada, il fenomeno della voucherizzazione si sta allargando. Quindi a me risulta veramente una pessima politica economica quella che praticamente continua ad andare avanti a botte di sussidi temporanei. E prima o poi ci sveglieremo anche sotto questo aspetto. Io devo dirvi che invece, se mi consentite, questa settimana ho avuto dei combattimenti con il MEF e con il Sole sulla vicenda di un decreto fiscale. Parleremo di una norma del decreto fiscale, ne riparleremo magari anche poi con Giorgio Infranca, con il nostro amico Giorgio Infranca, più avanti nel corso della trasmissione. Però saluto una mia vittoria, oltre al fatto che nel merito col professor Stevanato abbiamo spiegato a tutti coloro che ci inferocivano di insulti che non avevamo capito la norma sul prelievo, mentre loro aderiscono piattamente alla tesi di agente. È una questione di punti di vista, viva la libertà, però voglio plaudire alla decisione assunta da tutte le associazioni dell'ordine dei commercialisti che hanno indetto uno sciopero, sì, uno sciopero. Ieri hanno deciso che il prossimo 14 dicembre, per i contenuti del decreto fiscale, per gli aggravi delle norme di degli adempimenti, per esempio il regime obbligatorio trimestrale IVA, che significa un aggravio di tempo e oneri per il professionista, come naturalmente di oneri per il cliente, e per la via di continuo imbarbarimento dei rapporti tra contribuente e amministrazione tramite il passaggio obbligatorio ed essenziale del professionista, sciopero. Ecco, devo dire la verità, siccome era un invito che avevo fatto a tutte le associazioni, quando è che vi vediamo riprendere la via della difesa dei vostri diritti, che siete trattati oramai come funzionari dello Stato anche se pagati da privati, e sempre più ampliando le vostre sfere di responsabilità rispetto a quelle del cliente che assistete, quelle amministrative, della compartecipazione in solido, civili, penali e così via, devo dire che qualche segno di autonomia da parte dell'Agenzia delle Entrate e del suo tonante apparato di propaganda permanente, quotidiana, che anche sul Sole purtroppo miete vittime, e lo dico apertamente perché i colleghi lo sanno, che ho spiegato perché sono rimasto particolarmente male nel vedere la loro scheda sulla norma sul prelievo la presunzione di reddito da prelievo nel decreto fiscale. Allora, come vedete, non sono invenzioni di chi non conosce la norma, perché tutte le associazioni del mondo professionale che insiste su questo hanno capito che, insomma, il troppo è troppo, per così dire. Allora, però, ragazzi, l'impressione, possiamo dirlo, Mario, è che oggi, per esempio, la Bet fa un titolo e dice: il governo Renzi preme molto sul tavolo, sul pedale dell'acceleratore con l'Unione Europea, sperando di ottenere scontri, gli serve per il consenso interno. Allora, la vera domanda che ci poniamo però da un minuto in avanti, ma anticipiamo un giro rapidissimo con dei sì e dei no da parte di ciascuno di voi: questo aspetto, cioè l'autodrammatizzazione del 4, quanto ha contato in queste settimane per far risalire lo spread, per far dire a tutte le banche internazionali noi ci tiriamo indietro, a cominciare dalla vicina MPS, secondo voi, rispetto poi alla condizione reale dell'Italia? Dovresti fare una percentuale, secondo te, Mario, Carlo e Renato, che ce l'ha giunto. È veramente difficile, cioè per me una forse può avere inciso sul 50%, perché quello che conta è la percezione da fuori. E certo, se noi abbiamo, faccio l'esempio del giornale che seguo in assoluto di più, tutti i corrispondenti da Roma del Financial Times che ogni volta che si muove foglia in questo paese scrivono Renzi potrebbe perdere e potrebbe essere sconfitto e potrebbe vedere interrotto il suo sforzo risanatore, siccome il Financial Times lo leggono a Paderno Dugnano, ma lo leggono anche nel Far East, in California e quant'altro, è chiaro che a furia di ripetere il concetto magari qualcosa passa. Però tu dici 50%. Sì, per me 50%. Ma per me gli analisti internazionali guardano i numeri fondamentali e non alle campagne più o meno propagandistiche del governo, che invece mira, scusami, molto più pragmaticamente agli elettori. Quindi c'è una spaccatura, i numeri purtroppo sono quello che sta al centro del problema, e scusate, non è tanto il referendum quanto la situazione delle banche, che a sua volta è legata alla disponibilità del governo a dare quelle garanzie politiche collaterali che possono offrire agli investitori istituzionali, i famosi anchor investor, quelle motivazioni un po' ulteriori, quelle piccole spintarelle che consentirebbero a qualche banca nostrana di attrarre capitali. Insomma, per farvela semplice, senza un governo stabile è difficilissimo attrarre investitori che non sono attratti da investimenti in questo momento meramente economici, ma hanno bisogno. Quindi tu dici più del 50%. Più, sì, la drammatizzazione ha pesato. Tu cosa dici, Renato? 90% per per gli italiani e 20% per gli stranieri. 90 più 20 fa? No, 90 non è un 90 più 20. Deve fare la quota. Scoperto. No, ma ti devo dire, però, è giusto già anticipare l'algebra renziana, perché tra poco vedremo che l'algebra renziana. No, ma non, questa non è. No, no, questa... ma aspetta, però. Ho capito cosa vuoi dire. La mediana, insomma. Io dico solo che io considero la parte più irresponsabile di tutti, cioè quella che si fa i danni permanenti, ma permanenti seri, è quella fatta sulle banche. Esatto, questo. Perché lo spread poi, insomma, si vede cosa succede, in due settimane si riprezza e si capisce. La parte sulle banche, il documento scritto, insomma, dell'aumento del capitale MPS in quel modo così tardivo e così singolare nella maniera di lanciare l'appello alla conversione, no? Per il sub, per il senior, insomma, è una bomba. Quella, se esplode, inizia a lasciare poi segni a catena. Questo è poco da fare. Che non esploda, voglio vedere come fa a non esplodere. Ma quella io la considero una cosa sulla quale il governo, siccome ha molto calcato lui il pedale dell'autodrammatizzazione, molto, moltissimo. Questo è quello che viene da tutti i colloqui con fonti bancarie, negli istituti che hanno vicende delicate per le mani. Cioè, la richiesta è stata esplicita di drammatizzare, cioè di dire ai mercati mondiali: picchiateci se vince il no. Ecco, quella secondo me è una cosa che andava evitata a tutti i costi, per responsabilità nazionale. Non voglio dire per rispetto verso chi volesse votare no, è questo la politica. Però, è libera. Scusa, diciamo che questa operazione è già diventato altro da quello che, dal modo in cui era stata presentata a luglio. Ah, certo. È mutata completamente, ha avuto veramente una mutazione quell'operazione. Quindi nei prossimi giorni, io ripeto, speriamo che vada tutto bene. Però non solo è mutata questa operazione, è che è un paradigma per il risanamento di molte banche italiane. Quindi, sì, certamente. Fai la scala. Ma la menzogna è partita a luglio. Questo è il problema. La menzogna è partita a luglio. Per questo io posso dire, diciamo, poi magari se è una violazione della par condicio, vabbè, farò ammenda. Però io non sto dando nessuna indicazione di voto. Però per me sarebbe interessante vedere cosa succede nei prossimi mesi di fronte a, nel quadro nazionale delle difficoltà che abbiamo, di fronte ad una vittoria del sì. Va bene. E comunque riprendiamo tra pochi secondi sui 1000 giorni di Renzi. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Buongiorno, torniamo in diretta alle 10.37, prima 58 secondi per chi si fosse collegato adesso. Eccoci qua ai conti della belva. I 1000 giorni del governo Renzi festeggiati ieri con una conferenza stampa dal Presidente del Consiglio, che sapete è attivissimo in questi giorni, ha un numero oramai fino al 4 dicembre, referendum di impegni giornalieri ai quattro angoli dell'Italia, non solo veramente da far grippare il più oliato dei motori. E subito un giro, però vi devo chiedere subito, ma l'avete sentita o letta la sintesi di quello che ha detto Renzi ieri? Sì. Io l'ho trovata zen, l'ho trovata invece decisamente diversa. Tanti numeri, poche l'hai slide. L'hai trovata zen? Sì. Devo dire che già in termini relativi, cioè sì. Io ho trovato un cambio di tono, devo dire, quasi più asciutto, non lo so. Quasi asciutto? Sì. Misurato. Io non l'ho letto, sarebbe ora se diventa più asciutto. Scarno. No, ma io credo che ci sia, da cari ascoltatori, c'è una trasformazione in atto di Carlo Alberto, perché nelle scorse settimane c'ha degli scatti sono imprevisti. Le iniezioni di liquidità. No, la settimana prima del voto americano vi segnalo la serena certezza con cui indicò la vittoria di Trump. C'è chi ci azzecca e c'è chi no, caro Oscar. No, gli argomenti mi colpirono molto, cioè gli argomenti di centro previsionale, non solo ben informato ma ben non equivocato, oliato per così dire. Adesso siamo alla versione per cui Renzi è invece quasi intanto ha riempito le slide di numeri, una cosa che normalmente non fa di solito, sì. Cioè, mi ricordava il Berlusconi di numeri scegliendo i periodi e questo è il problema, esatto. Poi quali numeri vediamo? È sempre lo stesso. Ma intanto criterio. Fammi sì. Dare il benvenuto ai numeri, perché spostiamo il tema dal qualitativo al quantitativo. Poi che i numeri siano molto discutibili, adesso apriremo il dibattito, caro Oscar. Vabbè. I numeri magari si è fatto aiutare da qualcuno che conosciamo. No, ma il problema non è quello. Il problema è scegliere gli intervalli per paragonare i numeri in maniera tale da farli venire sempre però più favorevoli. Però la sintassi è un guadagno. Poi il metodo, le date, la comparatività, questo è tutto da discutere ovviamente. Però fammi fare un guadagno importante. Il fatto che il Presidente del Consiglio per la prima volta nella storia d'Italia, sai, perché è l'unico che ha fatto 1000 giorni insieme a Bettino Craxi e a Silvio Berlusconi. Cioè, capisci? Qui c'è un trend. C'è un tu trend. Immaginati il prossimo che farà 1000 giorni, chi potrà essere? Poi che questi numeri siano corretti in termini di periodi scelti, in termini di comparabilità. Troppo in termini chiederlo, vero? No, è giusto chiederlo, invece non è così. Che siano comparabili in termini di fattori esogeni o endogeni, cioè che siano dovuti all'azione del governo o siano un regalo di Mario Draghi, magari questo lo diciamo sì, con calma. Però scusa Carlo Alberto, sì. Guarda, io vorrei farti notare che, visto che parliamo di rigore metodologico e quant'altro, Renzi aveva anche detto, e lo ha detto più volte, da quando c'è il mio governo siamo passati col PIL da -1,9 a +0,9, quindi abbiamo fatto +2,8. Cioè, tu capisci che se ragioniamo in questo modo, no, non ci arriviamo più. Questa è la variazione della variazione percentuale, quindi la metodologia. Scusate, ma posso ricordo lanciare... che anche l'ABI contava i mutui così, te lo ricordo. L'ABI contava i lordi, l'ABI contava i lordi, però le variazioni di una percentuale intesa come numero assoluto mi mancavano. Diciamo che la nostra cultura numerica migliora. Però primo lancio, diciamo, il premio, diciamo, la bambolina gonfiabile della settimana va al signore o alla signora che scrive questo SMS: non avevamo dubbi che avreste votato sì. Vabbè, non è un problema non commentarmi di comprensione troppo al referendum, del testo. Che sono nei guai come conduttore. No, ma figurati, guarda che la mail l'ho vista anch'io, l'ho vista anch'io. Esatto. È arrivata anche a me la mail di Sebastiano, quindi, l'ho vista anch'io. Quindi bisogna stare attenti anche a come si parla, perché potrebbe, non è un criterio, devi sapere che i commenti dei conduttori non sono un criterio, non contano, fisico, sono fuori, però fuori possono sacco. Essere considerati. Allora, no, però, sai allora, come a questo punto, se volete, io dico No, così no. Compenso esatto. Mario. No, ma io tra mezz'ora dirò no, per cui alla fine coprirò tutta la trasmissione. D'ordine, io faccio una schedina sul messaggero sulla parte economica finanziaria in cui dico: il paziente ha smesso 8.000 giorni di rente dal punto di vista economico, il paziente tale ha smesso di aggravarsi, la diagnosi è che restano da fare gli interventi energici perché la patologia non riprenda vista l'instabilità internazionale. La mia sintesi è questa, proprio in due frasi, una più una, perché la composizione degli interventi fatti dal punto di vista fiscale, cioè la loro temporaneità, i bonus che prevalgono su tutto, perché gli interventi strutturali ci sono stati ma sono limitati. Quali sono? Il componente lavoro dell'IRAP, i due punti, il del 27,5 al 24% di IRES che scendono l'anno prossimo, e quelle sulla prima casa su cui non siamo stati d'accordo, l'abbiamo argomentato, ma anche quelle sono le tre cose strutturali. Tutto il resto sono bonus, queste sono cose a tempo, servono per la politica ma non hanno effetti strutturali. Idem per le clausole sono state traslate sul futuro, le clausole di salvaguardia prossimo. Esatto, il che fa pensare che si vota nel 2017 qualunque sia l'esito referendario. Questa è una buona inferenza, è ovvio, sì, nessuno vuole prendersi con la patata da 2 miliardi. E detto questo, quindi aver per così dire diminuito il tendenziale e il reale dell'avanzo primario, quando si riapre la forbice dei tassi, questo espone un paese molto indebitato alla ripresa dei rischi. Questa è la mia analisi strutturale, quindi al netto della politica. Sul mercato del lavoro abbiamo già detto con Mario, è inutile ripetere qual è l'effetto della massiccia decontribuzione e dell'effetto, e l'esplosione dei voucher significa che ci risiamo sotto un'altra versione. Flessibilità in altre sottomentite spoglie, diciamo. Esatto, quindi è insomma kicking the can, ecco, questa è la grande arte italiana. Esatto. Che di volta in volta i presidenti del consiglio, cioè prendere a calci la lattina per farla rotolare, per intenderci, più che interventi strutturali. Però detto questo, la nostra opinione mettiamocela adesso in tasca e iniziamo a chiedere ai nostri ospiti che opinione hanno loro e come spiegano anche questo, in particolare perché in questa settimana c'è stato in queste due settimane è cambiato il tono dell'atteggiamento del governo verso l'Europa, quindi bisogna spiegare ai nostri ascoltatori cosa è avvenuto davvero a proposito di artifici in realtà nel rapporto con l'Unione Europea. Quindi abbiamo con noi Luca Ricolfi, professore, grazie di essere con noi. Buongiorno. E David Carretta, grazie di essere con noi, Davide. Grazie a voi, buongiorno. Professor Ricolfi, qual è il suo bilancio dei 1.000 giorni in economia del Premier? Ma ci sono due facce strettamente connesse, a mio parere. La faccia positiva, che raramente viene considerata, è la statistica che prima l'ISA e ora l'Istat pubblicano mensilmente sulle famiglie in difficoltà. Le famiglie che a fine mese sono costrette ad attingere alle riserve o a fare debiti. Bene, questo numero, questa percentuale di famiglie in difficoltà aveva raggiunto due picchi, uno sotto Prodi nel 2008 e l'altro sotto Monti e Letta. Eravamo arrivati al 30, 32, 33% a seconda dei mesi. Ora, questa percentuale di famiglie in difficoltà è crollata nei 1.000 giorni di Renzi, ormai stiamo scendendo sotto il 20%, cioè stiamo tornando al picco Prodi. Allora, questo è indubbiamente un risultato positivo, però questo risultato, che dipende in larga parte dalla decontribuzione che ha permesso di aumentare i posti di lavoro,

stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Eccoci qui, tornati in diretta, cari ascoltatori, sono le 11:07 primi 25 secondi, c'è stato un concitatissimo confronto tra noi. Qui si litiga. No. No, che non litighiamo. La smentita ufficiale del governo dei soviet di fronte alle accuse di correnti interne. Abbiamo... Le belve si sbraiano, no. Questa è la verità, tra di loro. No, abbiamo una certa dialettica, abbiamo una certa dialettica che è una delle potenze. Ma vedo anche che tra gli ascoltatori c'è chi accusa di essere troppo pessimista. C'è chi accusa di non capire, c'è chi accusa di troppo globalisti. A me su Twitter hanno scritto che sto facendo campagna per il sì per poter continuare a scrivere contro Renzi e Padoan. Che se ci pensate, no, diciamo, però, al netto del risvolto psichiatrico della considerazione, è geniale. Che è così un complimento il mio blog all'ascoltatore, al lettore, però perché c'è un'articolazione complessa di pensiero nelle tue plurime ipotesi. No, io sono dissociato. Questo volevo dire, alla fine sono eggiato, come dicono quelli che diciamo, hanno studiato. Quelli che hanno fatto il militare a Cuneo, esatto, per cui alla fine qualunque esito per me va bene, adesso siete perché contenti, siamo così bipolari. Siamo bipolari, assolutamente. Allora, comunque vada, sarà un casino. Sentiamo comunque qualche ascoltatore. Federico da Milano, prego Federico, il bilancio dei 1000 giorni di Renzi secondo lei? Guardi, secondo me non è un bilancio così negativo come spesso si sente dire, soprattutto in questi giorni sotto referendum. Io faccio un'osservazione, ho 43 anni, quindi ricordo bene quello che è successo negli ultimi 20 anni, ce l'ho chiaro. E finalmente si è tornato a parlare un po' di politica, nel bene o nel male, ma si è parlato adesso non più di persone, di scandali, ma di politica. La riforma del lavoro, per esempio. Quella è una riforma che ha portato un problema, ha fatto uscire fuori, ha fatto discutere e fa discutere di un problema politico importante. Cosa si intende la società e lo Stato nel terzo millennio, come deve funzionare un nuovo mercato del lavoro, ma anche un nuovo Stato sociale. E lì ha lavorato Ichino, quindi non è stato un lavoro stupido quello che è dietro la riforma. Poi tecnicamente ci sono degli errori, ma ci sono anche tante cose fatte correttamente. E in fondo ha fatto venire fuori qualche incrostazione di troppo nella burocrazia. Penso per esempio alla modifica delle mansioni, al fatto che si parla troppo di incostituzionalità della legge, che è un modo per ottenerne un'abrogazione, diciamo, in uno scontro di poteri che in qualche modo era rimasto per troppo tempo sotto traccia perché c'era troppa debolezza politica. Quindi, come vede, è difficile dire dare un giudizio secondo me assolutamente negativo, certo. Esempio gli argomenti che affrontate voi, sì. Che seguo con interesse ma capisco poco perché ho studiato legge e non economia, però io penso sempre, ma in fondo saranno anche motivi, come dire, studi, attenzioni anche politiche nella battaglia che c'è adesso per ottenere maggiori possibilità di spesa. Ma qui le domando e vi domando, ma non c'è per caso anche uno scontro tra neoclassici e keynesiani, tra chi vuole in momenti di difficoltà chiedere maggiore spesa e chi invece ritiene che il rigore di bilancio sia la soluzione? È un problema politico, questo governo lo sta facendo uscire. Ma lei dice, prego, io mi limito semplicemente a dirle che c'è una questione elementare, ci sono in paesi con molto esposti, con molto debito, che continuano a fare debito a bassa produttività, quindi deboli nella leva che serve a far crescere il denominatore rispetto al debito, cioè il prodotto, con bassa partecipazione strutturale al mercato del lavoro di intere corti di età, di giovani e di donne, e in paesi così potete metterla, e apprezzo molto, cioè farci domande teoriche tra, che ne so, i modelli dinamico di equilibrio stocastico generale, ma non è quello il punto è elementare, un paese così è meglio che continui a fare più deficit e debito quanto, e poi un paese così è arrivato comunque a livelli di spesa pubblica su cui è intervenuto, perché si è intervenuti nei tagli ai trasferimenti, nello stop all'aumento delle retribuzioni pubbliche. Bisogna anche ridefinire il perimetro, perché altrimenti si finisce con criteri random per intaccare la qualità e l'offerta del servizio, libro scritto da Mario Seminario oramai tempo fa, ma nell'arco della crisi. Ecco, questi sono gli interrogativi, ma ripeto, qui non è fare il grande confronto tra austriaci e keynesiani, è molto più di buon senso la faccenda, dateci retta. Però Oscar, adesso che anche Trump si è iscritto al partito dei keynesiani, diciamo gli alibi culturali non ci mancheranno. Ah, no, diciamo. Non c'è dubbio. Anche se i più non dicono bene, il mega piano di infrastrutture non è a spese del governo, è a spese dei privati, secondo Trump, e questo lo rende ancora più improbabile. Con crediti d'imposta, esatto, per cui per la serie privatizzare gli utili e socializzare le perdite. Esatto. E poi magari abbiamo poi le convenzioni segrete come in Italia, per cui però quando l'opera non crea i redditi per cui era stracostruita, interviene lo Stato. Esatto. Sentiamo Walter da Piacenza. Walter. Buongiorno Oscar. L'ho chiamato perché da tanto tempo penso che mi sarei aspettato di più da un presidente del Consiglio di 40 anni, un uomo che si presenta come fosse come uno statista, invece guarda agli 80 euro da offrire alla gente come i panem e circensi la memoria. Per quanto riguarda questi tre anni, secondo me sono stati tre anni fallimentari, non siamo riusciti ad agganciare nessuna ripresa, che c'è, per la verità è stata modesta ovunque. Abbiamo continuato a lottare con il rapporto deficit PIL, con i rapporti con l'Europa, eccetera. Non si sono voluti andare a toccare più di tanto gli interessi, è vero, non abbiamo aumentato gli stipendi dei pubblici, ma stiamo facendo lo stesso assistenzialismo nei confronti non più della povera gente, ma facciamo l'assistenzialismo nei confronti dei manager dello Stato. E comunque, tornando al discorso di Renzi e al tema anche del referendum per cui andremo a votare tra poco, ma io mi domando e dico: ma non sarebbe stato più semplice presentarsi in Parlamento e dire da domani mattina e voi 630 deputati siete la metà e voi senatori siete la metà? Ebbene, mi mandate a caso, ok, domani vado davanti al paese e dico: mi avete mandato a caso per questo. Walter, però adesso non scavalliamo troppo il referendum, perché sennò, a parte che mi create problemi come conduttore, però per il referendum ci abbiamo ancora settimane, 1000 giorni sono adesso, tu hai un giudizio critico, anziché no. Luigi, dalla provincia di Cremona invece, Luigi? Salve, buongiorno. No, io non sono critico, anche perché credo che Renzi abbia operato in un momento di difficoltà, per cui ritengo più, a mio parere, plausibile il discorso del precedente ascoltatore rispetto a quello di adesso. Ripeto, opera in una situazione di difficoltà sia all'interno del proprio partito, sia la situazione politica italiana, che non mi pare poi che sia così florida, ecco. Ah no, ripeto, io dico che è difficile in Italia, cioè noi abbiamo avuto 17 anni un governo di centrodestra che aveva quasi una maggioranza bulgara e non mi pare che abbia fatto qualcosa di trascendentale. Però ecco, questo, ripeto, io trovo che all'interno del proprio partito, del PD, ci siano tante anime che lo stanno molto ostacolando, per cui è partito in un certo modo e adesso trova difficoltà, ecco. L'Europa, lei prima ha detto, prima si diceva Renzi era servo d'Europa e non andava bene, adesso che dice qualcosa contro l'Europa non va bene, insomma, non so. È difficile, ecco, io trovo che sia molto difficile. No, ma il mio compito è semplicemente di dire che non va bene se è una posa, perché i problemi hanno natura italiana, e a me sembra che i problemi di bassa produttività generale da 20 anni prima dell'euro siano italiani. Non va bene se poi per inventarti una cosa politica la fai su un pugno di milioni quando l'Europa ti sta concedendo in realtà tutto quello che chiedi, sia in termini di maggior deficit per te a casa tua, sia in termini di più spese nel bilancio europeo dove hai indicato tu. Il mio compito è quello, il mio compito non è fare quello che batte le mani pro tempore in termini comparati, perché quello lo fanno gli elettori scegliendo. Qui, cari amici, bisogna sempre che distinguiamo a cosa serve l'informazione. Voi pensate che sia una tribù permanente di scelte politiche l'informazione? Io, per quello che mi riguarda, no. Io, se volevo fare una scelta di formazione, ho sospeso di fare il conduttore, le ho tentato di darle, le ho prese, ma quando sono tornato a fare il conduttore faccio un altro mestiere, non faccio quello che deve bilanciare. Dai atto a Renzi che ci sta mettendo buona volontà, ma questo darà atto il suo confessore, i suoi parenti, quelli del suo partito e gli elettori italiani. Io faccio un altro mestiere, cioè quando vedo che l'intero sistema bancario italiano, caro Alberto, è appeso a una cosa che entro poche ore dopo il risultato del voto, cominciando l'MPS, avrà effetti a catena, penso che sia stato un po' irresponsabile costruire questa catena di eventi in questo modo, o no? Sbaglio, Alberto? Sì, la responsabilità però non è soltanto di questo governo, è di chi lo ha preceduto. Vero, e ne siamo in tempi di bilancio, e il sistema bancario purtroppo ha radici che affondano molto al di là e molto oltre le responsabilità della politica, e fammi dire, meno male che il sistema bancario finalmente cammina con le proprie gambe e non dipende dal sistema politico interno. Quindi intanto festeggio e voglio sostanzialmente dire che per fortuna il sistema bancario dipende dalla BCE e dalle opinioni degli investitori, e sempre di meno dal governo, fammelo dire, perché altrimenti il tema del complotto o del sovranismo non va da nessuna parte. Però volevo discutere un secondo dei mille giorni. Posso dire che invece io sono più convinto che dopo anni di delegittimazione internazionale dell'Italia, di crisi e emergenza con il governo Monti, io comunque sono contento di avere un governo politico in mano a qualcuno che ha mille responsabilità, ma fammi dire, rispetta i principi della democrazia, non ha un partito personale, ma se l'è guadagnato con leadership che gli viene riconosciuta anche dal capo dell'opposizione, e non è poco secondo me, e queste cose per me contano a livello simbolico, non stanno nei numeri, però per me l'Italia è diventata un paese un po' più normale. Poi si può giudicare o meno, a me per esempio è piaciuta un po' l'enfasi sull'innovazione, sulla tecnologia, che in altri governi non ho mai trovato, anzi ho trovato grandissimo diciamo ostacolo a quei temi, quindi qualche segnale di disponibilità, di volontà ci sono. I numeri non sono purtroppo rassicuranti, questo sì, neanche la scelta che il governo ha fatto di scegliere quei numeri lì, avrebbe dovuto scegliere numeri su cui il governo ha avuto azione diretta, e purtroppo quelli invece non sono incoraggianti. Però è vero che la riforma del mercato del lavoro è qualcosa che ci ha riconosciuto tutto il mondo, parziale, distorsiva, temporanea, ma c'è stata. C'è molto da fare, non abbiamo fatto quello che ha fatto il resto dell'Europa, verissimo, però voglio capire anche quali erano le alternative e quali saranno le alternative, e questo con onestà. Tu fai il conduttore, io faccio l'analista, secondo me bisogna dirle queste cose qua, altrimenti rischiamo di dividere un paese che è già spaccato in due parti, e io penso invece che un pochino più di unità nazionale in questi casi, e ho visto la reazione degli americani controversa, no? Ma subito dopo l'elezione di Trump, alla fine prevale, secondo me, il principio agli ascoltatori che Carlo Alberto vi ha appena dato un'interpretazione autentica dell'ultima intervista del Cavaliere, in cui ha detto c'è solo Renzi come leader in campo. Però non ce ne sono altri per fortuna. Non perché ci sia alcun collegamento tra Carlo Alberto e Cavaliere, sto dicendo semplicemente, però, che quello che ha detto lui c'è poi in parte dell'economia, della finanza, eccetera, persino in Berlusconi c'è questo ragionamento. Torniamo tra un minuto. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa, vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. I conti della belva. Eccoci qui tornati in diretta, sempre acceso tra noi la discussione. Però le parolacce le diciamo solo fuori onda. Sì, le parolacce le diciamo solo fuori onda. Ma comunque insomma, noi ce lo poniamo il problema di come ciascuno di noi nei nostri mestieri debba articolare entro quali limiti, con che correttezza l'interpretazione di quello che Renzi ha fatto, pesata per il giudizio in prospettiva delle alternative che possono venire fuori, perché non è detto che siano alternative da cui poi, no, escano soluzioni più probabili ai problemi che secondo noi sono fondamentali, e contemporaneamente rendendo atto a Renzi delle difficoltà rispetto ai suoi tentativi, sai, molti cui poi non ci piacciono. Alla fine la politica è sempre l'arte della mediazione, perché poi tranne qualcuno, e mi sembra che stiano salendo molto ultimamente, di quelli che, a cui piace, chiamiamolo il duce, cioè quello che tutto fa, tutto disfa, ma anche Renzi eccetera, in realtà eccetera. Un post mediatorio del tutto, cioè Renzi ha, tutti dicevano era sì, Berlusconi, poi Berlusconi ha prodotto una generazione in cui non è solo Renzi, se andate a vedere la leadership di Salvini è dello stesso tipo, significa no mediazione, fortissima identità su tre parole d'ordine, le conseguenze negative che deriveranno dall'uscita dall'euro la prima settimana sarà colpa di chi vi ci ha condotto dentro, quindi non chiedetelo a noi, ecco questo spirito qua che è il carattere della leadership berlusconiano, post-berlusconiano, ma anche di Renzi, e il motivo per cui piace De Luca, e il motivo per cui si è cristallizzata la base elettorale, e il peso di cui Berlusconi non riesce a fare a meno, col cavolo che c'è un centrodestra popolare, liberale, moderato, perché senza Salvini Berlusconi non riesce proprio a ragionare. Sono tutte del tipo che dici tu, queste leadership, tutte, però non è che Renzi fa eccezione, mediazione. Beh, non ce n'è. Però poi in Parlamento De Luca sta emergendo perché lo mette contro il muro utilizzando le armi di Renzi, non perché lo fa mediare tra correnti demidiane della DG. Non è così, è una cosa di un rapporto di pura forza. Se sentite i 26 minuti di ieri, sono un puro concentrato in cui c'è poco Guicciardini e c'è molto Baudin, cioè la teoria assoluta del potere. Schmidt, cioè Carl Schmidt, in quei 26 minuti, adesso diranno sei pazzo, in quei 26 minuti c'è un capo bastone che prende i voti. Neanche per idea, c'è una tradizione politica in cui però è la questione è quella del Führerprinzip. Attenzione, perché noi stiamo tutta la trasformazione politica italiana e il meccanismo decisionale sta diventando questo. Beh, la, crisi di, la crisi delle classi di dirigenti economiche autonome che vive l'ABI, per capirci, allineata integralmente a quello che dice il regolatore e che vive Confindustria, ecco, tanto per parlare anche un po' del nostro azionista, è una crisi che deriva esattamente da questo, dal fatto che la mediazione non c'è più, aveva portato eccessi demenziali, quindi io non la rimpiango come la rimpiange De Rita, però attento che la leadership attuale è tale quale a quella di quelli che giustamente molti temono, tale quale, non è diversa. Questo lo dico per stimolare Carlo Alberto. Però attenzione, non abbiamo parlato fino a questo momento di un tema fondamentale. Tema fondamentale per chi ci ascolta. Primo perché si tratta di capire alcuni punti su un passaggio decisivo voluto dal governo nel decreto fiscale che è connesso alla legge di bilancio 2017 e che riguarda la seguente interrogativo, che ha a che vedere con i vostri diritti, cari contribuenti. Ma può o non può rottamare le cartelle chi, essendo un buon contribuente e a fronte di una contestazione da parte dello Stato, aveva deciso di mettere sul tavolo il terzo il petitum in più che lo Stato con un accertamento gli aveva chiesto, perché questo prevedono le nostre norme intollerabilmente bizantine e asimmetriche a favore dello Stato, ed essendo in contenzioso però la può rottamare comunque o no? È vero che dovrà, se vuole rottamarla, comunque rottamarla per un importo che non è che è comprensivo di quello che lo Stato gli chiede in più nel contenzioso e magari compreso gli interessi e le sanzioni? Come stanno davvero le cose? E poi però questo lo prendiamo come spunto per consentire al nostro ospite primo di spiegarci come stanno le cose su questo, ma poi secondo per allargarci da un punto di vista di chi fa professione tributaria, perché è un avvocato tributarista il nostro ospite, per dirci anche lui qual è il giudizio di questi mille giorni che hanno visto decisioni fiscali anche qui un po' discutibili fino ad arrivare a questa scelta ordinamentale adesso di tra Agentrate ed Equitalia, ma con un pregresso in cui ho ricordato prima gli esempi di interventi strutturali e stabili nell'ordinamento di intervento sulle aliquote, ma a fianco ci sono stati anche begli aumenti sui fondi previdenziali, le casse professionali e così via. Allora, il nostro ospite, grazie di essere con noi, avvocato tributarista, appunto l'ho detto, Giorgio Infranca. Buongiorno. Allora, cominciamo dal punto concreto. Ma chi ha un contenzioso di fronte alla rottamazione e rottama in che condizione si trova? Allora, sostanzialmente il rapporto tra rottamazione e contenziosi pendenti è una questione di vitale importanza che sembra essere stata completamente dimenticata nella stesura del testo del decreto e anche in sede parlamentare, o per mancanza di conoscenza proprio del sistema di riscossione in costante di processo tributario, o per superficialità, o per ragioni che francamente fatico a individuare. Cioè, la rottamazione di per sé come strumento ha indubbi profili di iniquità e lo sappiamo, ma all'interno di questa iniquità tipica di questo strumento se ne crea un'altra non indifferente. Allora, il tema è un po' complesso e i casi pratici poi alla fine sono davvero infiniti, ma cerchiamo di ridurlo all'estrema sintesi. Allora, il decreto consente di definire la propria posizione con l'amministrazione finanziaria non pagando sanzioni e interessi di mora i carichi affidati all'agente della riscossione dal 2000 al 2016, termine prorogato da ultimo in sede di conversione. Quindi, presupposto principale per potersi avvalere della definizione è l'affidamento all'agente della riscossione di questi carichi dal 2000 al 2006. Ora, anche le pretese oggetto di lite giudiziale sono potenzialmente definibili, ma su questo aspetto il decreto si limita a dire che il contribuente con la dichiarazione di avvalersi deve impegnarsi a rinunciare ai relativi ricorsi e non dice nulla di più. Ora, una volta che si instaura una lite giudiziaria tributaria, il nostro legislatore dovrebbe sapere che la riscossione è provvisoria, è frazionata ed è accorrelata all'esito e ai vari gradi di giudizio. In sostanza, l'affidamento delle somme all'agente della riscossione, per esempio contenuti in un avviso di accertamento, non è subito integrale, quantomeno lo comincia a diventare soltanto in caso di soccombenza nel secondo grado di giudizio. In attesa dell'esito del primo grado di giudizio, so che viene affidato all'agente della riscossione, sempre se non pago spontaneamente, è un terzo delle imposte, esatto. Quindi nulla viene affidato a titolo di sanzione. Quindi analizziamo un caso semplice, così anche comprendiamo bene. Mettiamo il caso che questo contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento, che ne so, nel 2013, nel 2014, nel 2015, ma anche nel 2016. E ha deciso di impugnarlo perché riteneva appunto di avere ragioni per impugnarlo. A questo punto che cosa accade? Che diciamo, l'agente delle entrate affida all'agente di riscossione il solo terzo delle imposte, sempre se non paga spontaneamente, e questo contribuente, che vuole invece avvalersi della definizione, a questo punto non può farlo, perché non esiste un carico affidato all'agente di riscossione, non esistono sanzioni affidate all'agente della riscossione, e quindi non può farlo. Diversamente, lo stesso contribuente che ha ricevuto lo stesso avviso di accertamento negli stessi anni è stato dormiente, a quel punto l'agenzia delle entrate ha affidato totalmente il carico e quindi può benissimo, diciamo, avvalersi della definizione e quindi rottamato. I casi sono veramente infiniti, anche il caso di un contribuente che ha perso ieri in contenzioso, ha perso proprio nella giornata di ieri un contenzioso, a quel punto all'esito del giudizio di primo grado la riscossione diventa due terzi e incominciano a subentrare anche, esatto, le sanzioni. Anche le sanzioni. Ecco, però a quel punto innanzitutto non c'è il tempo di affidare queste somme all'agente della riscossione, perché se abbiamo una sentenza di ieri diciamo, dalla quale il contribuente si soccombente, non c'è materialmente il tempo, e cosa è definibile? Diventa definibile, se ci fosse il tempo, semmai due terzi. E l'altra, esatto, parte, che succede? L'altra parte, allora, alcuni ascoltatori avranno pensato che è una spiegazione troppo tecnica, ma in realtà la spiegazione dell'avvocato Infranca serve a farvi capire che la normazione tributaria è una cosa delicata e complessa, perché se tu non intervieni nei dettagli, quindi restiamo in attesa delle istruzioni per gli ascoltatori che ci avevano chiesto, ci spiegate cosa dobbiamo fare, bisogna aspettare attentamente le istruzioni precise in arrivo, perché altrimenti, come avete capito, e non potevate capirlo senza la spiegazione tecnica dell'avvocato Infranca, ci sono dei casi nei quali sarebbe attualmente del tutto non conveniente, perché vi trovereste a rottamare, sì, ma a rottamare la richiesta del petitum più interessi e sanzioni, tanto vero che a quel punto verrebbe premiato praticamente chi ha fatto il furbo e basta. Adesso questo l'avvocato Infranca non può dirlo così, ma sono io che lo dico. Ecco, quindi in parole povere, un'ulteriore conferma della delicatezza su cui le norme tributarie, se non sono precise e chiare, aprono dei grandi punti interrogativi e la gente non sa come fare. Ma se dovesse dare un giudizio sintetico, avvocato Franca, sull'intero complesso di questi 1000 giorni di interventi nell'ordinamento e nei pilastri del nostro ordinamento tributario da parte del governo Renzi, il suo voto quale sarebbe? Allora, il voto è un voto, diciamo, allora il problema di tutto il governo Renzi, a mio avviso, è un problema di fretta, nel senso che questa voglia di mettere in campo tanti provvedimenti poi alla fine si scontra, come il caso del genere, con diciamo, poi dal punto di vista pratico, dei problemi che vengono fuori, che indubbiamente poi non vengono risolti, poi devono essere demandati a circolari dell'amministrazione finanziaria, che hanno il peso che sappiamo che dovrebbero, sono diventate la fonte primaria del diritto tributario, vanno a soccombere. Ora un caso come questo sarà difficile però per l'amministrazione finanziaria andare a superare il dato normativo. Se un carico è affidato o è affidato o non è affidato, quindi io spero, ancora non so se c'è il termine per eventuali emendamenti, perché credo che purtroppo ha del termine martedì, almeno così ho visto. Però su questo tema era importante veramente dire attenzione, chi ha il contenzioso pendente ce l'ha, diciamo, a individuare come dato il contenzioso pendente alla data del 31, esatto, per fare i calcoli. E a quel punto, perché poi il rischio, diciamo, tutto si pone anche in contrasto con l'intento di ogni governo, che è quello di deflazionare il contenzioso, perché anche quello, cioè, se non mi permetti di, proprio a me che ho deciso, avevo delle ragioni di farle valere, per ragioni di opportunità invece decido di mollare tutto, allora dammi questa opportunità, invece così diventa materialmente impossibile. Allora, il nostro avvocato Infranc ha trovato una circostanza attenuante, per così dire, la fretta, quindi si iscrive al partito Carlo Albertiano, per così dire. Adesso sto scherzando, no, no. Non voglio offendere l'avvocato. Non ne faccio di partiti io, sto caro Oscar. Scherzando. Bravo, questo significa renderle ben ricevuta e ben data, sono il primo a riconoscerlo, però gli abbiamo riconosciuto un attenuante. La fretta che deriva dalla voglia di fare molto. Io penso che ci sono dei casi in cui, insomma, l'agenzia di entrate continua a contare troppo nel procedimento normativo e niente, mi leva dalla testa che la vicenda di questa settimana in cui ho combattuto con Zanetti, col MEF, col Sole, insieme al professor Stevanato, che la pensa come me, dopo la sentenza della Corte del 2014 sulla presunzione da prelievo per, in quel caso erano compensi di autonomi, bisognava abrogare l'intera presunzione e non ripristinarla, sia pur con tetti diversi, e quindi dicendo è una cosa nell'interesse di eccetera eccetera per i compensi e piccole imprese. Detto tutto questo, grazie all'avvocato Infranca e la prossima volta all'appuntamento con lui, perché noi lo invitiamo spesso, non poteva, la scorsa settimana finalmente è guarito, quindi un abbraccio all'avvocato Infranca, torniamo tra un minuto. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Axerta. Indaga. Documenta. Accerta. www.axerta.it. Vi presenta... L'Italia, l'Italia, le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della Belva. Poi alla fine sempre Fellini mi sembra che sia uno dei più sinceri, completi interpreti delle condizioni, delle spirite, delle scelte pubbliche italiane. Così e anche a questo tavolo scopriamo che c'è chi si è arreso. Così non voglio dire a chi, però avanzano, stanno conquistando anche il fortino, sono dentro il nostro perimetro, vedo uno di noi che scuote la testa, ma è così, avanzano, e alla fine è la supremazia della retorica politica sul merito, è sempre vinto nella storia di questo paese, se ci fate, e sta rivincendo, ma non ce l'ho con Renzi. E sono retoriche diverse, cioè quella del gonfiamo le gote di fronte ai tedeschi cattivi, oppure prendiamoli a calci in culo i tedeschi cattivi. Sono, ce l'hai al le telefono. Due, ma apposta sto facendo questa parte, perché le due retoriche contrapposte oramai, come vedete, si uniscono, si moltiplicano, si ibridano, sono in realtà espressioni diverse ma di una stessa tendenza, che è quella, caro Alberto, di... pochi numeri e molta recita, è così. Ma sei stato zen ieri, sei detto che è un boy scout di Rignano dell'Arno, ha fatto un atto d'umiltà per la prima volta, riconosciamolo, dai, ma perché non dobbiamo essere coerenti? Sono ed è riapparsa anche la bandiera dell'Unione Europea, ma sono segnali. Sì, sono segnali, la facciamo apparire e sparire, ma che cos'è? La temperatura di Bolzano? Ogni tanto diciamo anche non pervenuta, magari. Va bene, questo siparietto, perché questa settimana la rubrica, appunto, quella su una dichiarazione, un evento su cui riflettere contro luce, non c'è Udo Gumpel, ma c'è Tobias Pillar, il corrispondente della Frankfurter Allgemeine. Perché la domanda che gli chiediamo noi è di interpretarci due cose: come ha visto lui Obama, che è passato in Europa e ha detto alla Merkel sei l'unico argine ormai contro il populismo, che da una parte può sembrare una bella cosa, dall'altra sembra la bandierina consegnata da chi ne è appena stato travolto, quindi potrebbe non portare troppo bene. E poi però vogliamo sapere anche la sua opinione sui mille giorni del governo Renzi e questo tema improvvisamente cambiato di segno del rapporto con la Germania e con l'Unione Europea da parte di Renzi. Intanto buon sabato e grazie di essere con noi, Tobias. Buon sabato. Allora, cominciamo da la bandierina dell'unica diga rimasta data alla Merkel da Obama, secondo te, che effetto ha? Sì, vabbè, Merkel ha fatto molta strada con Obama, perché bisogna dire all'inizio lei era molto scettica, Obama era stato visto come un messia 8 anni fa quando alle primarie veniva a Berlino attirava 200.000 persone che volevano sentirlo, ma non era ricevuto dalla Merkel. E la Merkel in quel senso può dire che aversi guadagnato comunque la fiducia di Obama è un segno, ma è un segno del suo pragmatismo, che da un lato lei ha sempre fatto vedere, dall'altro lato a tanti populisti non piace neanche in Germania. E questo anche in quel senso un suo limite. Certo lei, difatti la vedo molto diversamente di quanto la vedono in Germania, in Italia, perché si parla sempre in Italia di direttorio, mentre io vedo una persona che cerca di sondare il terreno per trovare un comune denominatore in Europa, altro che direttorio. Se va prima a vedere quelli del nord, quelli dell'Europa dell'est, quelli del sud e quella inglese, e poi ha una visione di quali sono così le possibilità di trovare dei accordi. Invece da Roma qualcuno si sogna il direttorio per entrarci e comandare, o dice voglio, ma non è mai andato così nei paesi dell'Europa dell'est. Bravo Tobias a ricordarci che la Angela Merkel è una grandissima democristiana, possiamo dirlo in senso profondo e rispettoso del termine, secondo me è grande arte della mediazione, mediazione, però tutto basato sul rispetto, mentre l'interpretazione che ne danno praticamente la stragrande maggioranza dei direttori italiani ormai dei media è invece di un nazista autoritario. Io sono senza parole di fronte alla tragica crisi culturale che chi confessiona giornali del nostro paese ha nell'avere ordinato questa interpretazione. Poi, siccome i giornali sono monarchia assoluta, quello che rimane sulla terra più vicino alla monarchia assoluta, tranne il Partito Comunista Cinese, è lo statuto di un'impresa editoriale. Quindi, sai, se il direttore dice quello, o scrivi così o non scrivi più. Ma però è incredibile vedere spacciato per autoritarismo espressione di una vecchia cultura dell'idealismo tedesco nazionalista e reazionaria. La natura di politica America, che è di tutt'altro tipo, però questa è la mia opinione. Mentre invece che pensi, Tobias, di questa accelerazione della crisi data da Palazzo Chigi nei confronti del rapporto con l'Europa guida tedesca nelle ultime settimane? È un po' triste perché la Merkel e la Germania certamente in qualche modo si trovano di fronte un populismo proprio di segno opposto, così, in funzione anti-Italia, anti-Grecia, così. Ricordiamoci che i tedeschi erano in maggioranza contro l'accessione nell'euro, così, ma Kohl l'ha portato la Germania dentro l'euro comunque. E è stato promesso anche dall'Italia mai salvataggi di altri paesi, mai garanzia per il debito di altri paesi, mai acquisto di titoli di Stato dalla Banca Centrale Europea. E così... vedete un po', guardatevi intorno e vedete che tutte queste promesse o tabù sono state rotte in cambio di nulla, no? Perché è stato dato in cambio alla garanzia per il debito italiano la promessa di non aumentare il deficit, anzi di ridurla a zero, e quello si chiama fiscal compact. E vediamo quanto strillano i vari politici contro il fiscal compact. Vabbè, su questo su questo percorso non si può più andare avanti: o gli accordi valgono, così si può fare anche altri, o non valgono, non vale la pena allora di farne altri. Poi la mia idea di Renzi è: Renzi è stato molto più coraggioso all'inizio di tanti altri, ha fatto un inizio di riforme, ma non è arrivato a avere una massa critica di riforme così accendono una crescita molto più forte. Così, se le aziende italiane scappano dall'Italia, quelli di successo crescono fuori dall'Italia, se così nuove aziende dall'estero non arrivano in Italia, se la disoccupazione giovanile in Italia è così alta perché non c'è una formazione professionale, se sulle spiagge della Sicilia si costruiscono in nero delle baracche o delle villette anziché alberghi, mica è un problema della Merkel, no? È un problema dell'Italia. Allora, la sintesi è di Tobias: l'Italia in questi 1000 giorni non è riuscito a fare quello che tra il 2001 e 2004, 2002 e 2005, la Germania fece mettendo a punto praticamente l'intero pacchetto di riforme che hanno consentito di abbattere la spesa, le tasse, rendere più efficiente il welfare, i pacchetti Hartz sul lavoro, e di cui poi la Germania, certo, non dico che ha visto di rendita, però no, quello è stato il grande però cambio 2001 di rotta. Nel 2001 la eccetera, Germania eccetera. Era conciata come l'Italia, forse peggio. Era la grande malata d'Europa. Esattamente, come era indietro nelle questo tecnologie. Questo è un giudizio comparato, perché stiamo parlando di lunghezze temporali analoghe, e io lo sottoscrivo. Mi sembra anche a me, caro Carlo Alberto, che questa è forse la sintesi. Però io devo lamentarmi della tendenza al compromesso di questi tedeschi. Veramente avete sbracato su tutto, Tobias. Cioè, ma com'è? Tassi negativi. Sì, adesso acquista OMT, tutto. Avete sbracato su tutto, avete mollato su tutto. Non vi riconosco più, no, Tobias. Vabbè, sei il provocatore. Non risponde, Tobias, perché sto facendo il provocatore oggi, Carlo Alberto. Capisci? Cioè, come sì, questi personalmente mi augurerei una lettura della Germania sui numeri e sui fatti. Esatto. E invece tante volte chi si spaccia come conoscitore della Germania racconta favole, leggende, qualche volta anche menzogne e cose da ignoranti. Mettiamo così in campo, ieri ho visto la rassegna stampa con qualcuno che diceva la Volkswagen deve licenziare, allora avrà grandi guerre col sindacato, dimenticando che questi licenziamenti sono frutto di un accordo con i sindacati. No, ma tu devi capire che i direttori ormai però c'è anche il non distinguono i loro desideri con gli occhiali italiani. Leggere l'estero con gli occhiali italiani. Il tic italiano è quello di leggere l'estero con gli occhiali italiani. Grazie anche a Tobias, e noi ci abbiamo il nostro ultimo, e sarà l'imprenditore adesso a dirci, dopo questo minuto, qual è il suo bilancio da imprenditore dei 1000 giorni di Renzi. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte, e fino alla morte l'Italia pagò, sì! I conti della belva. Allora, alla fine, sintesi, bilancio complesso, cari amici, tra la belva, diciamo così, tra le belve, c'è un Carlo Alberto, lo avrete capito, cari ascoltatori, a parte della distribuzione del ruolo delle parti, per non sembrarvi monolitici, noi non siamo monolitici, noi siamo d'acciaio, ma detto questo, ogni tanto distinguiamo le parti tra noi. C'è un Carlo Alberto che ha un giudizio costruttivamente positivo dei 1000 giorni, vede le grandi difficoltà e le tante cose non fatte, però tiene molto conto del complesso di circostanze ostili, per così dire, di questi 1000 giorni. E invita a una riflessione. Voi tutti dicendo: guardate che i 4, se fate una certa scelta, si allineano tutta una serie di cose sui mercati, e non fate finta di non saperlo, non le ha scelte Renzi, ma è così, perché testimoniano la difficoltà strutturale delle banche, le cose eccetera eccetera. Tenetene conto, non fate gli irresponsabili. La democrazia è libertà, ma la libertà è responsabilità. Pur non raccontandovi che siamo nell'Eden, che è colpa dei cattivi, è colpa di tanti problemi risolti. Mario Seminario è ha combinato. Io mi ascrivo molto più aperto di Mario in queste circostanze. Riconosco la buona volontà, ma poi credo che la volontà di radicare una leadership, lui è stato fortissimo quando ha creduto di avere il 41%. Quando ha iniziato a vedere nei mesi che il 41% non c'era più, esatto, lì a quel punto la politica ha preso la mano. La leadership individuale del Führer Prinzip ha preso la mano. E secondo me la freddezza nella valutazione strutturale dei problemi italiani è passata in seconda battuta, e questa che secondo me invece è quella che mi preoccupa di più, la cosa strutturale italiana, e quindi io inizio a essere più insoddisfatto da allora. Poi magari mi sbaglio, però dichiaro il mio punto di vista. Però l'imprenditore, ecco, ci farebbe, diciamo, l'unico che lavora, come dice qualcuno dei molti dei nostri qui rimproverano Oscar perché dice che ti interrompe sempre, quindi prendi il microfono e vai verso il traguardo. Ma no, non è che mi interrompe, sono io che sono lungo di solito, sono logorroico. Come lo vedo dal punto di vista degli imprenditori? Beh, io dico mezza piena, nel senso che alcune cose interessanti sono state fatte, alcune cose interessanti le stanno facendo, quindi per esempio Industria 4.0 non è male, un po' di riforma del lavoro poteva essere più coraggiosa, è stata fatta. Invece io, siccome la mia rubrica si chiama Non si può fare. Oggi avevo tutta la voglia di trasformarmi in Oscar Giannino, però non sono così bravo. Non te lo consiglio. Non sono così bravo a urlare basta, basta, basta, perché ci sono due cose combinate e disposte di questa settimana che mi hanno veramente scocciato e che sono il fatto di De Luca che dice questo ci manda un sacco di soldi e legge quanti soldi ci ha gli ha mandato e leggere l'ennesima decontribuzione per il Sud. Ecco. È ora di finirla, perché se vogliamo fare crescere il Sud, lo Stato deve ripristinare la legalità e dare una burocrazia che funziona. Basta! Solo quello serve alle aziende del Sud per svilupparsi. Perché più gli dai droga e più sviluppi un'imprenditoria bacata che è sovvenzionata e basta. Esatto. Perché una volta per tutti, io lo dico, lo sostengo da tempo, contrariamente alla maggior parte dei miei colleghi, anche dell'editore di questa radio, è ora di finirla con gli incentivi. Le aziende vanno bene se stanno sul mercato e sono capaci di svilupparsi sul mercato. Gli incentivi sono distorsivi anche al meridione. Abbiamo visto che fine abbiamo fatto con gli incentivi del bonus per le assunzioni. Allora, ogni rottamazione, bonus, qualsiasi cosa, non fa che anticipare dei cicli. Non fa che distorgere il mercato. E spesso assumere decisioni che non sarebbero assunte in condizioni ordinarie e di cui si paga il prezzo dopo. Io e Carlo Alberto stasettimana abbiamo scritto una cosa sull'industria 4.0. Allora, io nel mio articolo ho detto le aziende sane investono sull'industria 4.0 che ci siano gli incentivi o che non ci siano gli incentivi. Perché le aziende devono investire per andare avanti, se hanno voglia di andare avanti. Se hanno voglia di tirare i remi in barca, fanno un discorso completamente diverso. E riconosciamo a Ministro Calenda che lo ha detto questo. Non tocca a noi prendere decisioni per gli imprenditori, ci tocca consentire di crescere e investire. Anche nel giudizio dell'imprenditore ci farà riconoscimento di cose buone, e questo però non privo della capacità critica di poter esprimersi contro rispetto a alcune scelte. Condivido comunque quello detto da Mario e Renato su questa storia delle cose del Sud, però De Luca, è una questione politica, è tutta una questione politica dentro il PD e sul paese. Questo, ohimè, è l'amara sintesi delle nostre critiche, tranne Carlo Alberto che è in testa alla pattuglione dei renziani dei Conte della Belva. Per cose di...